lo so, verrà la fine di agosto e tu dovrai lasciar così questa spiaggia e ritornerai dagli amici tuoi e di me ti scorderai. Che mai sarà di noi di tutta un'estate? Di me, di te, di noi, delle ore passate. Tu ritornerai nella tua città ed io perderò la felicità. Settembre ci aspetta già, l'autunno poi passerà, ma io non potrò, lo sai, scordarmi di te. E poi per me sarà la fine di tutto, ma non finirà, anche tu lo sai, questo grande amore che tu mi dai. Settembre ci aspetta già, l'autunno poi passerà, ma io non potrò, lo sai, scordarmi di te. Oh, come vorrei fermar il vento che muove il mar, il tempo che via da me ti porterà. Verrà, lo so, verrà la fine di agosto e poi per me sarà la fine di tutto, ma non finirà, anche tu lo sai, questo grande amore che tu mi dai. Ma non finirà, anche tu lo sai, questo grande amore che tu mi dai. Thank you.